Io sono il Duca di Siena, mi chiamo già Samato, tipa mi fissa. Sono colto e sofisticato come Obama. Faccio molto dinero, sono un peso grosso, me roba del nero. Io sono negro, huh? Io sono negro. Il Duca di Siena, mi chiamo già Samato, tipa mi fissa. Sono colto e sofisticato come Obama. Faccio molto dinero, sono un peso grosso, me roba del nero. Io sono negro, huh? Io sono negro. Mi vedi in piazza col vino in mano, chiamami Baco. Sono un dio. La mia borsa è piena di ste banconote, le chiamo Ducati. Mi vedi a Gramsci con la mia tipa nella mia Bugatti. Vi fate le seghe con le mie foto, mi sembra ortodosso. La mia tipa è Habesha, abbiate rispetto. Sembra un dipinto di Leo da Vinci, la nuova Gioconda. È preziosa quanto una pietra, la chiamo Smeralda. Lo so che mi ama, so che mi ama. Io sono vero, lo sai che vengo dalla street. Io sono Hyde, non fumo neanche la weed. Sono un alieno, sembro un vero sumero. Ho sangue blu, sono il vero Kaisaro. Non ti voglio vedere, io sono molto antipatico. Ovunque io vada, io semino il panico. Tuo padre mi odia, ma la tua mamma mi adora. Sembro Gesù, solo stanti nel mio squadra. Io sono il Duca di Siena, mi chiamo già Samato, tipa mi fissa. Sono colto e sofisticato come Obama. Faccio molto dinero, sono un peso grosso, me roba del nero. Io sono negro, huh? Io sono negro. Il Duca di Siena, mi chiamo già Samato, tipa mi fissa. Sono colto e sofisticato come Obama. Faccio molto dinero, sono un peso grosso, me roba del nero. Io sono negro, huh? Io sono negro. Ok, ma chi sei tu? Cosa? Non capisco. Chiudi la porta, mica sono Gesù, non parlare di me. Faccio bang bang, vuoi soldi, lavori scemo. Esco con una bianca, ma qual è il tuo problema? Chiamami Ashno, kebab la stazione. Ho fatto la storia, vuoi chiedere a me? Non lo so. Tizi Al, Ashno Al, siamo tutti Al. Siamo tutti Al. Sono nero, perciò sogno, perciò sogno. Non vado indietro, non vado indietro. Never, never, never, never. Italia, Italia, love you. Manca solo disco d'oro. Tutte le notti non dormo. Quando sogno non mi fermo. Porca puttana, Dio bello, hey, my niggas, siamo i duchi, voi siete i scemi, sono il duca e voi scemi, Ash no. Io sono il duca di Siena, mi chiamo già Samato, tipa mi fissa. Sono colto e sofisticato come Obama. Faccio molto dinero, sono un peso grosso, me roba del nero. Io sono negro, huh? Io sono negro. Duca di Siena, mi chiamo già Samato, tipa mi fissa. Sono colto e sofisticato come Obama. Faccio molto dinero, sono un peso grosso, me roba del nero. Io sono negro, huh? Io sono negro.